avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Chi di voi è sceso in piazza a Roma quest'ultimo sabato di battaglia? 800240024. Questa mattina, visto che tanti ne hanno parlato, era l'argomento principe da Domenica In al programma pomeridiano di Canale 5 per tutta la serata. Politici, esperti, attenti osservatori, farabulani salottieri hanno parlato, ragionato, giudicato, spezzettato, indignato, difeso ciò che è accaduto a Roma quest'ultimo sabato. Che è stato uno spettacolo non proprio bello, edificante. Migliaia e migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro tutta una serie di problemi che ormai non toccano più un singolo paese, ma toccano la globalità. Un corteo che è stato contaminato e si è svolto in 82 paesi, da New York a Londra, Francoforte, Madrid, Atene, Tel Aviv, Santiago del Cile, insomma una bella rete di collegamento in cui la gente scende in piazza e protesta contro le banche, contro i governi, contro le speculazioni, contro chi non è capace di gestire. In tutto il mondo si è mediamente svolto in maniera abbastanza controllata questo movimento di protesta, che è un movimento, lo sapete meglio di me, ve lo ricordo per puro diletto, nasce qualche mese fa in Spagna, il cosiddetto movimento degli indignados, o gli indignati, perché irrita meno la gola a pronunciarlo. Sono i precari che scendono in piazza e rivendicano il loro diritto a lavorare. Poi si è esteso, poi assunto fattispecie per ogni paese. In Italia, l'Italia è stradotto nel casino, ne lo sfasciamo tutto, del diamo fuoco alle automobili, diamo fuoco alle camionette delle forze dell'ordine, sfasciamo i vetri delle banche. Non sono indignato dell'indignazione altrui, non sono indignato degli indignati, non faccio il moralista, non osservo, non faccio retrologie, semplicemente vorrei sentire la voce di chi c'era quel pomeriggio e mi racconti il clima, ciò che sembrava a lui che stesse accadendo. 800240024. Questo è un reale clima di guerra che è stato il sound costante di tutti i telegiornali dalla giornata di sabato e anche per tutta domenica, e ancora oggi se ne parlerà. Questa è la prima grande manifestazione di piazza, grande in quanto spalmata in tutto l'universo civilizzato, che ha un forte impatto, perlomeno riverbera secondo me quelle che sono le logiche della rete. Era una rete di persone che protestavano. Il senso della protesta era circolarmente passato in tanti paesi apparentemente diversi tra loro, diversamente gestiti, con persone diverse, abitudini diverse, latitudini diverse, ma c'è stata una sorta di omologazione nella protesta. Ecco perché noi invece abbiamo rappresentato una particolarità, perché in presente ci siamo svegliati e perché sembra quasi che ci sia stata una transumanza dal peggior tifo da stadio alle manifestazioni in piazza. C'era stato un annuncio anche abbastanza preciso su quello che sarebbe accaduto, perché quindi questa trasmissione noi l'avevamo già pensata da venerdì. Noi ci siamo detti, io e Fabrizio Intonti, venerdì parliamo del casino di piazza. Oggi mi sembra assurdo, come mai avevamo questa premonizione? Evidentemente nella memoria generale, nell'immaginazione generale, nell'emotività generale, sapeva che questa mattina l'argomento sarebbe stato il casino di piazza. Poteva non essere così, ma invece è stato così. Salvatore, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno ai tuoi ascoltatori. Allora, tu eri in piazza a Roma. Sì, io ero in piazza a Roma. Da dove venivi? Da dove venivi? Sì. No, da Palestrina in realtà, quindi comunque ho fatto pochi chilometri. Tra l'altro io sono arrivato in ritardo, non ho fatto tutto il corteo, quindi cioè, sono arrivato e nella mia idea era, ho detto arrivo a San Giovanni, mi aspetto che arrivi più o meno il corteo e mi faccio la... Eri andato per far casino? Scusa la domanda, No, ci mancherebbe. No, uno può anche telefonare, ero andato per far casino. Ammetto e accetto anche queste telefonate. Eri andato a partecipare a una tranquilla, a una manifestazione perché eri convinto che era... Diciamo che quando ho visto che qualche giorno prima giravano i messaggi con il numero di telefono dell'assistenza avvocati, diciamo un po'... Spiegami questa cosa, cosa significa girare i messaggi? Come? Attraverso quale circuito? Attraverso Facebook. Twitter, ma che per carità è una cosa anche diciamo legittima. Cioè davano il telefono di un collegio di avvocati pronti a difendere chi eventualmente... Esatto. E quindi già lì mi sono un po' chiesto se non fosse in qualche modo, se qualcuno si aspettasse che succedesse qualcosa. Un mettere le mani avanti. Invece il clima che hai respirato? Io appena sono uscito dalla metropolitana mi sono trovato un sacco di gente che invece veniva in senso opposto. E con le facce preoccupate. E quindi già lì ho capito, visto che comunque non è la prima manifestazione che faccio, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Appena siamo usciti, diciamo, su Piazzale Appio, ho cominciato a vedere in lontananza, dietro le mura, il fumo dei lacrimogeni e la gente che sono stata... Era già cominciata la battaglia. Era già cominciata, sì. E siamo entrati dentro Piazza San Giovanni, e niente, insomma, sono stato lì fino alle 8 di sera, in qualche modo assistendo a tutto quello che... Ecco, la tua impressione generale, potessi riassumerla in uno stato d'animo: un impazzimento totale, una azione organizzata quasi militaresca, un improvviso tumulto di folla per una contaminazione improbabile e imprevedibile. Cosa è successo? No, io da quello che ho capito, come sempre in questi casi succede, cioè io ho visto che c'era gente anche non incappucciata, non organizzata, senza casco, che comunque dava contro le forze dell'ordine. Quindi secondo te, vediamo se riassumo l'idea, c'era un nucleo combattente e una sorta di fiancheggiatori neutri che tutto sommato dicevano fate bene e gli davano consenso. Sì, in qualche modo sì, ma non la farei così semplice. Secondo me è più... io credo che sia più una situazione in cui tu ti trovi, perché poi è quello che ho letto in seguito, ti trovi lì che comunque stai facendo una manifestazione, ecco, magari non sei proprio la persona super pacifica che va lì dicendo vabbè, manifesto con le braccia alzate, sei magari, non dico un fascinoroso, però uno un po' più che si fa prendere, ecco, però magari sei lì e puoi manifestare in qualche modo pacificamente, poi però ti trovi in mezzo al casino, magari succede che... E ti lasci prendere. E magari poi, rispondi al fuoco in qualche modo. Ok, fermiamoci Salvatore. Marina, buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei anzitutto specificare che io non ho partecipato alla manifestazione, ma che semplicemente io abito proprio in quella zona. Quindi tornavi a casa? No, sono andata via proprio sabato mattina all'alba, proprio per non trovarmi in mezzo, ma ho assistito ai 3 giorni precedenti, diciamo, di accampamento tende su Via Nazionale, perché le finestre di casa mia danno proprio su Via Nazionale. E cosa hai visto? No, ho visto una gente pacifica, gente che ballava, tamburi, insomma le solite cose. Ogni tanto sentivo qualcuno che prendeva il megafono e diceva, a mio avviso, idiozie, tipo chiudiamo la Banca Italia, che non ha un senso. Quindi diciamo c'erano già gli accampamenti, sì, vabbè, ma gli acquartieramenti dei combattenti. Vabbè, ma questo si sapeva perché l'ha detto al telegiornale, ma io non voglio, non sono intervenuta per dire questo. No, vorrei che tu dici qualcosa in più rispetto a quello. Esatto. Che questa mattina ho assistito personalmente, perché mi alzo molto presto, e ho assistito all'intervista di uno di questi personaggi pacifici, così almeno si è definito, che ha organizzato, perché era stato già intervistato 3 giorni prima, era uno di quelli accampati lì su Via Nazionale. Sintesi. Che ha detto che assolutamente loro non c'entrano niente, che la manifestazione gli è stata rovinata, non si sa. Sì, questa allora, è una delle letture. Lei cosa pensa, Marina? Io voglio dire una cosa. Se effettivamente la situazione fosse questa. Io non capisco perché le migliaia di persone che c'erano e che erano visibilmente, perché le telecamere dal telegiornale di sera si è visto proprio bene. Quello che hai visto te, Marina, le telecamere le abbiamo viste tutti. Esatto, voglio dire, se queste persone pacifiche che circondavano in che erano all'interno, perché quando hanno visto che questi deliravano non si sono buttati tutti nei vicoli e se ne sono andati lasciando perché, 300 imbecilli? Non è così semplice, perché una manifestazione non c'è questa facilità di muoversi una volta che uno è dentro, è un po' difficile. Geronimo. Sì, salve. Sì, velocemente, far parlare tante persone, ma siate sintetici, eri alla manifestazione. Allora, sì, sinteticamente, io ero nella parte... avanti della manifestazione e questi delinquenti erano facilmente individuabili. Prima ancora che agissero. Questi erano, da lontano si vedevano già le fiamme, si vedevano queste colonne di persone vestite di nero che andavano a rinforzare, secondo me, i delinquenti che erano già davanti. Quindi era un esercito organizzato e in divisa, quindi non era un esercito, lo chiamo così. Come li vedevo io, noi li abbiamo cominciato a chiamare fascisti, perché questi secondo noi erano fascisti, abbiamo provato a bloccarne alcuni, poi la paura ha prevalso. Ora sentivo la signora che diceva perché la gente non andava via, le strade erano tutte bloccate dalla polizia, la polizia era ad ogni incrocio che bloccava le strade e non interveniva, poi si è concentrata in piazza San Giovanni, dove io mi sono trovato con vecchi, con anziani, con famiglie, e ci hanno fatto entrare dentro un portone, perché sennò ci prendevamo da una parte le manganellate dai poliziotti e dall'altra i sanpietrini. È chiaro Geronimo. L'ultimo, Renato, poi passiamo all'ospite. Sì, buongiorno Gianluca. Niente, io ero lì in questa manifestazione, anche io sono partito dalla piazza San Giovanni, tutto quanto, e devo dire che la cosa che mi ha indignato a me era più che altro che questi delinquenti, che secondo me è una criminalità organizzata assolutamente, perché era tutto preparato, secondo me. Perché hai avuto questa impressione? Perché si facevano segni, si dicevano cosa fare, era tutto... c'era un coordinamento. Io finora gli elementi che ho raccolto dagli ascoltatori, che li hanno visti inquadrati e in divisa, li hanno visti da giorni prima... accampate intorno, gli hanno visti darsi i comandi, come appunto ci si dà un gruppo di azione. Il fatto che, sai cos'è che mi indignava di più? Che non avevano paura della polizia. In altri paesi queste cose non succedono, perché noi un professionista che va a fare guerriglia urbana è chiaro non ha paura della polizia, ma negli altri paesi non hanno paura della polizia, invece qui andavano lì come se fossero un ragazzino così a dargli le botte. Bisogna anche mettersi d'accordo sulla reazione che uno pretende anni. Che abbiano i poliziotti, perché hanno paura di intervenire, perché sennò passano i guai loro, loro se avevano i proiettili di gomma, vedeva quelli come scappavano via. Questo è uno dei problemi, che solo le forze polizia non siamo adeguati, non abbiamo fucili calibro 12 a pompa che sparano proiettili di gomma, che sono molto efficaci contro la come scappavano via tutti quanti. Non siamo esperti di guerriglia urbana. Beppe Neri, buongiorno, salute Renato. Beppe Neri, buongiorno. Allora, buongiorno Gianluca. Beppe Neri, voi direte cosa c'entra? Beppe Neri, che lo conoscete, è un neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Beppe Neri è andato in missione per noi. Beppe Neri, anche lui da venerdì sapeva che avremmo fatto questa trasmissione, e ho chiesto la gentilezza, proprio perché volevo che una persona esperta delle patologie che possono scatenarsi in alcune particolari situazioni, di farsi un giro nella manifestazione. Beppe l'ha fatto. E l'ho fatto con molto piacere, anche perché era un bellissimo sabato di autunno, c'erano 28 gradi a Piazza della Repubblica e c'era una situazione, per restare in tema, totalmente schizofrenica. Cioè tu vedevi da una parte ragazzi, famiglie, pensionati, gente che ballava, gente che suonava e che quindi ti dava l'idea di una manifestazione. Mascherati, truccati. Addirittura con i tamburi. C'era una cosa un po' strana per la nostra generazione. C'erano dei camion che, oltre che guidare e distribuire musica, avevano della birra alla spina che distribuivano a pagamento ai partecipanti. Però quello che chiunque poteva vedere era che c'era una dissociazione, proprio nel senso clinico, psichiatrico, una separatezza fra questa entità e il fatto che a 50 metri... alle 2:15, quando ancora non era cominciato nulla, doveva partire da Piazza della Repubblica la manifestazione, c'era un gruppo di 30-40 ragazzetti ventenni con le tute, con le zip tirate su fino al naso, con dei caschi già messi in testa e con delle sciarpe con 28 gradi all'ombra che già coprivano il volto. Erano tutti insieme e ricevevano, tra virgolette, io lo dico una specie di briefing perché ero lì vicino, da persone più adulte che, a mio avviso, per quanto potevo vedere, non volevo farmi notare troppo, data la mia età e il fatto che era evidente che non fosse un ragazzetto. Non puoi passare per un black bloc. Potevo passare per uno della Digos se non mi sarebbe piaciuto tanto in quel contesto. Era evidente che ricevevano istruzioni. Questurini di vecchia generazione. Esatto, esatto, esatto. Il maresciallo Lo Giode, cioè, che sono in borghese, ma si capisce esatto. Subito. Esatto. E io ho detto, ma questi sono assolutamente un corpo estraneo e si stanno preparando a qualcosa. Quando poi si sono mosse le varie componenti, l'unica cosa che ho riconosciuto di quando eravamo ragazzi noi era per esempio la parte della FIOM, che era l'unica che aveva un suo servizio d'ordine come usava una volta, e ho sentito ancora tornare quelle frasi di tanti anni fa, cordoni, cordoni, che perlomeno garantivano una compattezza e una non permeabilità. Però non andavano certo a controllare esatto. Il gruppo dei guerrieri. Ma lì c'erano decine di migliaia di persone. E poi a un certo punto tu vedevi che dietro a certi camion c'era una prima fila che teneva una specie di striscione nero su cui era scritto qualcosa, con dei ragazzi tutti vestiti di nero ma a viso scoperto e con delle aste piuttosto robuste per i loro stendardi, e dietro c'erano cinque file di ragazzi tutti completamente con il viso coperto con i passamontagna e già con i caschi in testa, che ti dava l'idea di una falange militarmente organizzata che si muoveva verso un obiettivo. Quindi la tua analisi da psichiatra era impossibile che in una percezione banalmente regolare non ci si accorgesse che da una parte, dietro i canti, i balli, l'aspetto ludico, l'aspetto divertente, l'aspetto cosmopolita e globalizzato della giusta e lecita protesta, ci fosse un esercito organizzato, perché finora tutte le telefonate, la tua conferma, danno l'idea di un esercito vero e proprio, con delle divise, con un'organizzazione militare, con una capacità di gestione della situazione invidiabile, devo dire. Si vede che sono persone che hanno comunque studiato, fatto dei corsi, non poteva essere improvvisata questa organizzazione. No, c'era una perfetta strategia, perché le forze dell'ordine avevano dichiarato: noi proteggeremo il quadrilatero della politica, cioè verso Piazza Venezia, verso Palazzo Grazioli, verso Montecitorio non si potrà sfondare. Era allora meraviglioso, sembrava un giorno di Ferragosto, esatto, era deserto. Esatto, però questi avevano un piano molto preciso, hanno fatto un gesto dimostrativo, dico io, armando casino a via Cavour, per poi fare in modo che la polizia aspettasse che tutto si esaurisse, mentre il loro vero obiettivo era arrivare a Piazza San Giovanni, dove i presidi di polizia all'inizio erano, a mio avviso, numericamente molto molto esigui. Tant'è vero che quando hanno cercato a Via Labicana di separare e dividere a metà il corteo, è successo che tutti quelli che avevano già programmato che sarebbero andati a creare il caos a Piazza San Giovanni avevano la strada aperta, perché la polizia si occupava soltanto di impedire che una parte del corteo, diciamo quella buona, potesse mescolarsi. Allora, chi era con ottime intenzioni è rimasto fuori da Piazza San Giovanni. A Piazza San Giovanni è rimasto spazio devastantemente aperto per quelli che avevano un solo obiettivo, che era di fare il caos per il caos. Quando scoppia in maniera così veloce, repentina e organizzata la violenza in una piazza molto frequentata, quali sono le dinamiche individuali che entrano in gioco? Noi abbiamo individuato anche una sorta di zona grigia, così è stata chiamata, le persone che sì erano in piazza, che sì si erano resi conto di quello che sta accadendo, non erano partecipanti direttamente allo sfasciamento delle vetrine, all'assalto ai poliziotti, va dicendo, ma quelle che stavano intorno, facevano corteo, semplicemente filmavano. Era pieno di gente che filmava. Ci saranno tonnellate e tonnellate di schede magnetiche impresse con le immagini di quel giorno. Stanno tutti filmando. Se erano ragazzi che spaccavano la vetrina di una banca o davano fuoco a un blindato della polizia, intorno 200 marel a filmare. Però io ho anche visto delle cose che confermano, almeno nella mia visione delle cose, l'ipotesi di qualcosa di molto ben strutturato e organizzato. Ho visto due con dei badge molto grossi con scritto stampa che facevano delle riprese e che sono stati fisicamente aggrediti da alcuni vestiti di nero e coi visi coperti, perché stavano inquadrando, secondo me forse troppo da vicino e con troppi dettagli, quelli che sfondavano le vetrine di una banca o che hanno assaltato un supermercato alimentare buttando poi il cibo fuori e senza che, devo dire, la gente che passava nel corteo raccogliesse nulla di quello che era buttato fuori. ci fermiamo un istante per dare le informazioni alla borsa. Devo dire poi l'elemento nuovo in questa manifestazione era il senso di impudicizia di fronte a chi ti filmava. Sì, te hanno picchiato dei giornalisti, hanno malmenato un operatore, mi sembra, di Sky TG24 o di altre televisioni, però in realtà oggi, se vai nella maggior parte dei siti che parlano di questo problema, stanno pubblicando migliaia di foto dei manifestanti, molti a volto scoperto, molti quasi fossero sicuri dell'impunità, che comunque anche una volta identificati a loro non succederà nulla. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Stronzo pezzo di merda! Bravo, bravo! Bravo! Berlusconi! Ti siete messi i soldi di Berlusconi! Ti siete messi i soldi! Te ne devi dannattene, è stata la frase più ricorrente rivolta all'indirizzo di Pannella. Pannella ha meritato un video che sta girando ovunque su YouTube. Cercava il martirio Pannella, chiaramente. Cercava il martirio, girava, fendeva la folla con i suoi capelli bianchi, sperando che probabilmente qualcuno andasse anche oltre l'insulto, si avrebbe raccolto anche lui una sua buona dose di notorietà questa mattina, ma in realtà anche in maniera del tutto ignorante, non ci se la prende con un signore così anziano. A un certo punto ho visto la folla veramente incattivita. È passato un signore vestito tutto elegante con la moglie al fianco, gli ha detto "a stronzo" e gli ha sputato in faccia, e poi se n'è andato tranquillo. E ho visto veramente qual è il meccanismo per cui la folla può veramente fare a pezzi una persona. Lo hanno graziato soltanto perché in realtà era troppo anziano, macilento, con questa coda di cavallo bianca, sembrava un profeta in attesa appunto di salire sul patibolo. Era già morto, probabilmente per questo non l'hanno ucciso. Però è interessante, lo hanno accusato di aver votato a favore della fiducia del governo quando nemmeno è vero, impapocchiavano, comunque era un nemico, la folla era imbestialita, gli hanno portato davanti a un certo punto un signore di 92 anni, ha detto "guarda questo, ha 92 anni e questo pure, te ne devi dannare pure", è stata una cosa fantastica. Beppe Neri, è soltanto, fammi un paragone, visto che sei molto documentato, tu che hai fatto una sorta di, è trasformato in un setting psichiatrico quella piazza dell'altro giorno, hai visto, hai già detto che la schizofrenia era il sintomo più evidente. Qualcosa del genere è già successo in Europa, forse abbiamo perso un po' la memoria storica, quelli che fu i famosi casseur della banlieue parigina, che in quel caso era una cosa molto definita. Io, vedendo questa gente che distruggeva le vetrine, sfondava ed era organizzatissima, perché venivi a tirare fuori dagli zaini i razzi fumogeni già pronti, comunque ho pensato al fatto che Nicolas Sarkozy era stato attaccato dai ben pensanti quelli francesi la chiamano gauche caviar, sinistra al caviale, perché aveva usato un termine riferendosi ai ragazzi che rompevano i radical fighetti dalle parti nostre, i terrazzieri, questi qua, però l'hanno accusato perché lui aveva detto "questa è racaille", che vuol dire marmaglia, feccia, gentaglia. Allora si può discutere poi sulle scelte che una persona che ha una importante carica come il Presidente della Repubblica francese può usare di fronte a quelli che sono comunque dei suoi giovani cittadini. Però vedendo quella gente all'opera ieri, questa riflessione sulla scelta delle parole, al di là di congelo, quelli di fascisti, è che sì, fa vabbè, pensare. L'ho lasciato al dare il termine perché ormai è depotenziato di ogni significato storico. Si dice fascista per dire stronzo. Esatto, ma anche perché caratterizza colui il quale utilizza questo termine, eccetera, eccetera. Poi vestiti di nero, avevano i capelli corti. Quello che però noi, che siamo sempre un paese più... È un retropensiero che ormai manco vale la pena di specificare. I miei colleghi che hanno un certo tipo di formazione sanno che fa molto fico usare certi termini che caratterizzano una consorteria. Io li trovo culturale. Molto retro questi termini. Però... Insomma, allora dicono che noi siamo un paese onfalocentrico, allora è meglio essere pratici e dire ci stiamo a guardare l'ombelico. Ma noi lo sappiamo che nel 2005 nella banlieue parigina i ragazzi hanno fatto fuori bruciando le 10.000 autovetture, non 200-300, che sono stati 280 i palazzi dati alle fiamme. Allora, questi fenomeni danno la misura del fatto che è vero che l'altro ieri in Italia c'è stata una situazione del tutto anomala, ma circostanze diverse possono realizzare delle situazioni in cui a Parigi 4-5 anni fa si sono verificate delle forme di guerriglia urbana sicuramente pesanti e confrontabili con le nostre. Quindi alcune radici, e qui poi i sociologi faranno tutte le loro analisi, possono essere alla base di certe manifestazioni che però, almeno nella situazione dell'altro ieri, hanno avuto questo connotato secondo me distintivo. Cioè, gli è stato preparato un setting organizzativo, la manifestazione, che è stato studiato da chi aveva la capacità di organizzare queste forme di aggressione e di guerriglia urbana, perché come si entrava come nel burro dentro il corteo, si poteva anche colpire degli obiettivi ritornando poi come i pesci dentro l'acqua all'interno della manifestazione. Martino, buongiorno, eri alla manifestazione? Buongiorno, ero alla manifestazione, ero in Piazza San Giovanni e confesso ho partecipato agli scontri, per cui non mi vergogno a dirlo e volevo dire tre cose molto. Ecco, tu eri, facevi parte, diciamo, delle truppe organizzate o ti sei accodato così come mercenario dell'ultima ora, ecco? Esattamente quello che volevo dire, che secondo me la rappresentazione organizzato non regge. Io sicuramente c'erano dei gruppi organizzati e non si può nasconderlo, ma credo che intorno a questi gruppi si sia raccolta una grandissima maggioranza, perché ero presente. Ecco, cos'è che ti ha fatto scattare la molla e cominciare a spaccare tutto? Ma a parte che, come dire, la mia non era assolutamente voglia di spaccare tutto, la mia era sicuramente una grandissima rabbia per quello che vivo tutti i giorni come ragazzo di 25 anni che fa tre lavori per tirare la fine del mese e che non ha un futuro davanti. Sì, ma spaccare una vetrina ti fa star meglio. Voglio fare il moralista. Vorrei specificare che io non condivido assolutamente i danni che sono stati fatti per gli scontri a partire dalle macchine bruciate e dalle vetrine rotte. E allora cosa hai fatto te? Penso che però, come dire, all'interno di un corteo lo scontro con le forze dell'ordine faccia parte della dinamica. Sì, ma che colpa avevano le forze dell'ordine rispetto ai tuoi tre lavori precari? Nulla. Io non penso che le forze dell'ordine siano il limite. Quindi come allo stadio per far casino, tanto però, per menare. No, assolutamente. Mi devi dare una ragione, io non ti giudico, però di dirmi. No, se mi dici perché quello mi sta sulle palle, dico, è già un motivo. Io le dico, secondo me è stato un errore fare quegli scontri in quella piazza San Giovanni, perché è stato completamente inutile. Se noi avessimo puntato, per esempio, nella zona rossa che era stata individuata intorno ai palazzi del potere, quegli scontri avrebbero avuto un significato. Sì, ma trovavi nemmeno gli uscieri, erano tutti chiusi, stanno tutti in vacanza, gli uomini del potere. Ho capito, però questo non vuol dire che non si possano, come dire, nelle altre città d'Europa la parola d'ordine era assediare i luoghi del potere e si è cercato di. Sì, fare. Ma nelle altre città d'Europa li facevano salire sulle scalinate perché mettevano gli striscioni e non rompevano nulla. Hanno fatto tutto quello che volevano perché non hanno. Uno va con un San Pietrino è grosso, la parte che sta sotto è più grossa di quella che sta sopra. Quando gira è una bomba in testa quando arriva, non è proprio una carezza. Comunque, quindi materialmente qual è, diciamo, io ho visto attività organizzate, perché la successione dello spaccare prima con i pali di Velti, poi andarci col martello, poi buttare dentro il materiale incendiario, presupponeva un'organizzazione. Voi fiancheggiatori cosa avete fatto? Cosa vi siete limitati a fare? Io personalmente ho cercato di tutelare le tante persone che erano comunque in Piazza San Giovanni e non partecipavano agli scontri. Beh, quindi facevi il servizio d'ordine, te facevi. Ad esempio rigettando via i lacrimogeni che andavano a colpire comunque donne e ragazzini giovani. Beh, hai fatto una sorta di servizio d'ordine, te, quindi non è una sorta di tutela delle persone che, come dire, che sono rimaste intrappolate in piazza e che non c'entravano nulla. Un tuo collega per far questo ci ha perso tre dita perché il lacrimogeno l'ha preso con le mani. Non è una cosa divertente. Comunque, se posso dire un'ultimissima cosa, anzi, due brevissime. Io credo che più che continuare a insistere sulla criminalizzazione della tanta parte che magari ingenuamente e sbagliando ha partecipato a quegli scontri, bisognerebbe interrogarsi sulla generazione priva di contatti politici che sta crescendo, di giovani come me. No, però stai dicendo una cosa molto giusta, perché in effetti se diventa l'ultima spiaggia della propria capacità di esprimere dissenso, accodarsi a chi va a rompere le vetrine, bisogna farsi molte domande, ma molte, esatto, molto profonde. Infatti l'ultimissima cosa che le dico, mi scusi, poi sì, non ci più, è che secondo me il problema vero del corteo di sabato non sta negli scontri gravissimi, condannabili e così via, ok, ma nel voto politico che c'era in quel corteo, perché gli scontri avvengono perché i gruppi che hanno chiamato quel corteo, io ho partecipato alla costruzione di quel corteo, nessuno di quei gruppi, a partire dalla realtà più costituenti, come possono essere quelle dei vari Rinaldini e Casarini, che giocano dopo anni di finta disobbedienza a vari costituenti, sì. Quando hanno capito che buttava male, sono corsi via a gambe levate. E È caduta anche la linea. Cristina, buongiorno. Come stai? Ah, Cristina è una delle componenti della premiata antica farmacia delle sorelle Barletta, che sta proprio sotto il portico di Piazza della Repubblica. Quindi, oltre a essere melogmane, fida melogmane, fornitrice di presidi medici, ha visto di persona un particolare che ancora non è uscito dalle nostre telefonate. Cosa hai visto, Cristina? No, allora, premetto che in 10 anni di, perché ormai appunto da 10 anni che lavoro lì, di manifestazione, non avevo mai percepito la stessa area proprio di pericolo. Confermo quello che ha detto il tuo ospite circa un quarto d'ora, 20 minuti fa. C'era questo gruppo di 30-40 ragazzini con queste felpe, già appunto queste nei giardinetti pelle, di fronte. Esatto, pronti, caschi, e sono entrate anche in farmacia, purtroppo chiedendomi anche proprio siringhe ed acqua, insomma, quindi non c'è il presidio anche per il buco, quindi molti esatto, sfacevano. Purtroppo sì, mentre uscivo, appunto, io non vado allo stadio, però la mia collaboratrice sì, mi ha detto: dottoressa, ha notato che aveva uscivano dalle tasche i guanti di pelle nera. Ha detto: vabbè, perché? Cioè, questi sono come quelli che vanno allo stadio, devi stare bene alla larga perché vengono proprio per menare, l'ha detto proprio alla romana. Quindi si facevano prima con purtroppo sì, e io le siringhe della premiata farmacia Barletta. Esatto, non ho mai chiuso prima all'ennesimo, l'ultimo quarto d'ora non facevano che entrare in farmacia a chiedere. I primi erano dei pancabesti simpatici, tutto il più avevano bisogno di una doccia, ma finiva là, non avevano sì. Nulla di pericoloso. Gli ultimi, infatti, poi sono scesa apposta per spegnere, vabbè, la palina indicatrice, e ho visto questo gruppo che appunto diceva bene il tuo facilmente, cioè io non ho assolutamente esperienza, ma erano molto, con molta semplicità, individuabili questi ragazzi torvi che erano lì assolutamente insieme alle famiglie, coi bimbetti, ma si notava questo gruppo di 40 persone che non erano per niente appunto venuti là per manifestare pacificamente. E se l'ho notati persino io, che non sono un addetto ai lavori, secondo me Digos, come diceva quel signore, o altri dovevano accorgersene. Esatto, proprio palese. Proprio. Grazie Cristina. Beh, solo una battuta. L'associazione di sostanza psicotropa e violenza di piazza, hai notato dei segni, dei sintomi che qualcuno potesse essere anche sopra le righe rispetto a un comportamento già esagitato? Ma lì bisognerebbe, come giustamente diceva la dottoressa Barletta, analizzare il campione umano, cioè già se tu prendi gli esemplari da stadio, gli ultra, lì una componente di abuso di sostanze le tu hai detto varie, c'erano i camion eccetera. Con la birra che davano la birra, quell'altro era il discorso, che però era più, sai, la musica e la birra ti porta più sulla tipologia rave party che non manifestazione. No, il discorso è che nel momento in cui l'aggressività emerge, certamente l'assunzione di sostanze che interferiscono in termini limitativi, cioè riducono l'autocontrollo, la consapevolezza del proprio comportamento e i limiti dell'aggressività, non possono altro che favorire. Connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questa mattina l'abbiamo dedicata agli ascoltatori che hanno partecipato di persona alle manifestazioni, violenze, disordini di gruppo, chiamateli come volete, di sabato a Roma. Sintetizzo alcuni elementi che sono emersi. Tutti hanno riconosciuto il fatto che esistesse una sorta di falange organizzata, il termine non è quello esatto, ma esistesse comunque un gruppo identificabile che era già stato notato nella sua organizzazione, nella sua esteriore inquadramento, con le divise tutte uguali, divise con i vestiti neri uguali, con i cappucci tutti uguali, passamontagna, le sciarpe pesanti nonostante che fosse un clima abbastanza caldo, che già stazionavano in alcuni punti chiave come giardinetti di Piazza della Repubblica. Molti l'hanno visti in azione, molti ci hanno chiamato, anzi un ascoltatore ci ha chiamato dicendo di far parte di quella sorta di fascia grigia di persone che non erano andate con l'idea di far casino, ma quando hanno visto il casino si sono messi in mezzo, hanno anche loro operato. Però la costante che tutte le persone che hanno testimoniato questa mattina hanno comunque si trovano comunque d'accordo, il fatto che fosse presente e visibile una realtà organizzata all'interno del corteo. Ma questo ce lo può dire con maggiore esattezza questa mattina Carlo Bonini. Carlo Bonini, buongiorno. Buongiorno a voi. Carlo Bonini è un collega, un giornalista di Repubblica, ha scritto vari libri, da noi è venuto a presentare il suo ACAB, è esperto in situazioni che hanno a che fare con la sicurezza, ma soprattutto nel suo giornale, penso in... ha realizzato quello che forse tutti avrebbero voluto fare, ha incontrato, intervistato in maniera dettagliata e capillare un cosiddetto black bloc, una persona che ha partecipato attivamente a questi scontri. Il titolo che leggo nel pezzo sul sito di Repubblica: il black bloc svela i piani di guerra, ci siamo addestrati in Grecia. Ecco, ci racconti, Carlo, un po' il tuo punto di vista, soprattutto questo ragazzo, questa persona, cosa ti ha detto di nuovo rispetto alle percezioni generali? Ma io credo che questo ragazzo, se si può chiamare ragazzo, ma nel nostro paese va bene così. Quanti anni aveva più o meno? 30 anni. Dice, secondo me dice due cose molto, molto... Carlo, stai con il viva voce perché ti sento con un po' di alone. Se dicevo, non so, così va meglio. Sì, parla con il telefono, non con un viva voce, sennò ti sentono male. Sì, dicevo, credo che questo ragazzo dica due cose molto interessanti. La prima svela in qualche modo, conferma ma svela il dettaglio della pianificazione militare che ha accompagnato le violenze di sabato. Non è una semplice pianificazione agli scontri, è proprio una pianificazione militare, racconta dei meccanismi di guerriglia con cui era stata organizzata la presenza violenta in piazza, dal travisamento, diciamo così, progressivo di questi due gruppi, da 500 e da 300, in cui si erano divisi i neri, dalla preordinazione con cui avevano immaginato non solo l'attacco, ma anche la prevedibile risposta delle forze dell'ordine, al fatto che il percorso fosse stato nei giorni precedenti, nelle ore precedenti, disseminato di punti di raccolta, di rifornimento di armi, fino al furgone, questo furgone bianco parcheggiato a ridosso di Piazza San Giovanni. E racconta come questa pianificazione non sia una pianificazione, non sia un addestramento, non sia, diciamo così, un'arte imparata, appresa nelle ultime settimane, ma che va avanti per quel che lo riguarda, perché sono un ragazzo pugliese, va avanti da almeno un anno, con viaggi mensili in Grecia. Ecco, perché proprio in Grecia? Chi in Grecia organizza? Grecia, diciamo, i greci sono considerati dagli anarco, diciamo, la Grecia è considerata in Europa una delle patrie dell'anarco-insurrezionalismo. Gli anarco-insurrezionalisti in Grecia hanno un'antica tradizione politica, ma hanno soprattutto una forte presenza dentro i movimenti di protesta e di contestazione, e i greci nel tempo hanno sviluppato capacità di guerriglia, capacità militare di guerriglia molto, molto raffinate. Infatti l'impressione che tutti abbiamo avuto nel vedere i filmati, soprattutto la rottura progressiva delle vetrine, dei vetri blindati, presupponeva una tecnica che non è che si improvvisi. Non solo una tecnica, perché insomma, la tecnica, c'è una tecnica nel devastare, ma c'è una tecnica soprattutto molto, molto efficiente, come è stato possibile vedere, una tecnica di piazza, come stare dentro un corteo, come, diciamo così, dare la sensazione di essere numericamente inferiori, salvo poi svelare, diciamo, al nemico, tra virgolette, cioè alle forze dell'ordine, la effettiva, diciamo così, consistenza dei propri ranghi. E questa suddivisione di compiti tra i componenti delle batterie, così questo ragazzo definisce le piccole squadre in cui poi gli aggressori si organizzano. Per cui sembra un'organizzazione militare, è un battaglione diviso in squadre, sì, plotoni, come? C'è un'organizzazione militare molto efficiente, in queste squadre c'è chi raccoglie gli oggetti da tirare o da brandire, c'è chi li lancia, e poi ci sono gli esperti in bombe carta, cioè c'è chi poi, come dire, ha una specificità nell'uso delle bombe carta, dei petardi. Ecco, tu hai capito qual era l'obiettivo estremo? Perché dare fuoco a un blindato con dentro i carabinieri presuppone il fatto che un addestramento del genere può portare persino ad uccidere una persona o a eliminare il nemico in maniera finale. Lì ho la, diciamo, quello che percepisco, quello che ho percepito è che in qualche modo questa frangia, la vogliamo chiamare frangia, questa componente anarco-insurrezionalista abbia fatto i conti già da tempo e li abbia risolti, cioè che l'eventualità di un morto in piazza è nelle cose, anzi, forse, come dire, è considerato un elemento, non dico auspicabile, ma nelle cose. Ti ringrazio, questa era l'ultima cosa che mi interessava di capire. La sigla ci sta portando via. Grazie a Carlo Bonini, ci dice che comunque dal suo punto di vista, il suo osservatorio, la sua inchiesta ha portato alla conclusione che in realtà queste persone sono organizzate, vanno in piazza e non si fermerebbero nemmeno di fronte all'eventualità di lasciare il morto in piazza. Grazie Beppe Neri, grazie Carlo Bonini, a domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.